Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Riccardo Iacona, giornalista e conduttore TV, che ha appena scritto un libro attualissimo intitolato Se questi sono gli uomini, quelli cioè che ogni due giorni uccidono una donna in Italia e quelli tanti che davanti al femminicidio costante rimangono totalmente indifferenti. E non perdetevi naturalmente anche il suo punto di vista sui fatti della settimana, ascoltando Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.